We have had some technical problems. Hit it! 2 0 2 4 2024 In questa puntata di 2024. I tablet, come funzionano e quali sono i nuovi concorrenti dell'iPad ad un anno dall'uscita della tavoletta dell'Apple? C'è una curiosità pazzesca su questo, quindi sicuramente i tablet e gli smartphone di nuova generazione ruberanno una consistente fetta di mercato ai netbook e ai PC di basso costo. A marzo-aprile dovrebbe arrivare senz'altro la seconda generazione di iPad e poi questi nuovi concorrenti. Parleremo anche di videogiochi con la nostra nuova rubrica. Credo che nessuno a questo mondo si aspetti di svegliarsi un mattino e ritrovarsi nel bel mezzo di una guerra fra due organizzazioni segrete. Non io, almeno. Ma eccomi qua. Cresce il numero di italiani che utilizzano internet. L'Italia rimane un paese poco digitalizzato, ma tra i giovani le percentuali sono simili a quelle dei paesi più avanzati. Ci sono quasi 25 milioni di navigatori mensili e sono il 45% della popolazione dai 2 anni in su. Infine lo spazio in collaborazione con National Geographic. Oggi parleremo di treni a lievitazione magnetica. 2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, ci conosciamo, questa è naturalmente una nuova versione del nostro programma. Abbiamo anche un sottotitolo, come la tecnologia cambia la vita, e scoprirete perché abbiamo dato questo sottotitolo al nostro programma. Oggi inizia una nuova serie di puntate di 2024. All'inizio di un decennio che promette molte più novità, almeno alcuni esperti dicono così, di quello che abbiamo appena vissuto. Ma se pensiamo agli ultimi 10 anni, pensate alle tante tecnologie che hanno cambiato oramai inesorabilmente la vita: la diffusione dei cellulari, che negli ultimi 3 anni sono diventati smartphones, la diffusione dell'ADSL e di tutti gli altri sistemi per collegarsi ad internet, ad esempio. Pensate anche alle TV, che hanno trasformato l'arredamento di molte case, e pensate ai tablet, l'iPad e tutti i concorrenti che sono già sul mercato o in arrivo nei prossimi mesi. Di questo parliamo oggi, a 2024. Vi ricordo il nostro numero verde, perché questa è un'altra delle grandi novità del nostro programma, cioè torniamo in diretta con gli ascoltatori. 824 0024. Vi ricordo anche il numero degli SMS, 349 238 6666. Naturalmente c'è anche l'email, poi utilizzeremo nelle prossime puntate altri sistemi di connessione digitale. La nostra email 2024@radio24.it. Torniamo, alcuni ci hanno già scritto ricordando i vecchi tempi di 2024, quando andavamo in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì, ma questo tanto per dire che tornano in diretta anche i nostri ascoltatori. Sono passati 11 anni, 3 mesi e 12 giorni dalla prima puntata. Oggi vi diamo il benvenuto anche a tutti i nuovi ascoltatori che si mettono all'ascolto. Allora chiamateci, oggi parleremo di tablet, questo è il tema principale, dicevo, l'iPad e tutte le altre novità che stanno arrivando sul mercato, alcune ci sono già. C'è un'altra novità, sono i videogiochi e il gioco di 2024 che mette in palio ogni settimana un premio. Parliamo di videogiochi con Stefano Gallarini. È il momento di parlare di videogiochi, ma prima di ogni cosa iniziamo con il nostro gioco. Per vincere dovrete superare 2 livelli e sconfiggere il mostro finale. Il primo che invierà la risposta corretta a videogiochi@radio24.it vincerà il videogioco di cui vi parlo oggi. Livello 1. Arde nel caminetto. Oggi parliamo di un gioco sviluppato in Canada e che nasce dalla passione per l'Italia e la sua storia. Un gioco che ha raccolto milioni di consensi in tutto il mondo. Un gioco che racconta la realtà del Rinascimento per trasformarla in fantasia dei giorni nostri. Un gioco che è diventato anche un romanzo di successo. Un gioco che vi trasformerà in assassini. Ora sei tu il capo degli assassini. Riuniscili, Ezio Auditore, e riconquista Roma.

E veniamo adesso al nostro gioco. Siete pronti a sconfiggere il mostro di fine livello e portare a casa la versione Codex Edition di Assassin's Creed Brotherhood? Se avete risolto i due livelli precedenti, saprete rispondere a questa domanda. Mostro di fine livello. Qual è il suo colore tipico? La risposta a videogiochi@radio24.it. Vincerà il primo che risponderà correttamente alla domanda. E adesso finiamo con la classifica. Quinto posto per Assassin's Creed Brotherhood, disponibile per Xbox, PS3 e presto per PC. Quarto posto per l'accessorio Kinect abbinato al gioco Kinect Adventures per Xbox, la prima console dove il controller sei tu. Al terzo posto la versione 2011 di FIFA, il gioco di calcio acclamato ormai come il migliore di sempre. Al secondo posto il titolo d'azione che sta entusiasmando milioni di giocatori in tutto il mondo alle prese con un mistero che coinvolge Kennedy e Fidel Castro e da vedere anche in 3D, Call of Duty Black Ops. Al primo posto lo splendido gioco di corse automobilistiche su strada che vanta un garage di 1031 auto differenti, Gran Turismo 5. È tutto per questa puntata. Se avete curiosità o domande, scrivete a videogiochi@radio24.it. A sabato prossimo da Stefano Gallarini. Sono le 15:42 minuti, questo è 2024, siamo in diretta, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci, per parlare con noi di tablet, l'iPad e tutti i suoi amici, beh, che molto amici non sono perché sono concorrenti, alcuni sono già usciti sul mercato, altri usciranno. Ad esempio c'è una domanda ricorrente, sono già arrivati alcuni messaggi proprio che ci chiedono, ma i tablet o le tablet, perché alcuni li chiamano al femminile, sostituiscono i PC? Parleremo anche di questo. Saluto Gianfranco Giardina, il nostro esperto di Digital World, del mondo digitale, che è appena tornato da Las Vegas. Ciao Gianfranco, bentornato. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ricordiamo che Gianfranco Giardina guida la redazione di D-Day.it, del magazine online D-Day.it. Sei appena tornato da Las Vegas perché l'anno inizia, l'anno della consumer electronics, quindi dell'elettronica di consumo, inizia a Las Vegas, dove c'è una fiera che si chiama proprio così, Consumer Electronic Show, che è più bello detto per esteso piuttosto che CES. Sì, in italiano suona male. In italiano suona bene. E io prima dicevo, abbiamo concluso un decennio pieno di novità. Questo potremmo dire è un decennio, alcuni dicono appunto, che sarà ricco di molte più novità di quelle che abbiamo visto, e probabilmente i tablet o le tablet, poi ci accordiamo anche sul termine, sono una delle novità dei prossimi anni. Sono comunque sicuramente la novità dell'edizione del Consumer Electronics Show di quest'anno, e il tema assolutamente importante. Poi sarà il tempo a decidere se questa categoria di prodotti sarà duratura poi nel tempo, o magari fra 3-4 anni ci troveremo a parlare di che cosa sta sostituendo i tablet, perché tornando indietro magari anche solo di un paio d'anni, si ricorda come un paio d'anni fa la mania era per i netbook, 2-3 anni fa, e i netbook sono proprio la categoria che invece in questo momento sta soffrendo di più l'arrivo dei tablet. Il nostro numero verde 800 24 00 24, ma naturalmente ci sono altre modalità. Scriveteci una email, cercheremo di rispondere in diretta, 2024@radio24.it, oppure il nostro numero per gli SMS 349 238 6666. 2024. Vi ricordo che il nostro programma sarà disponibile anche attraverso il sistema podcast di Radio 24. Tutte le informazioni sono online, www.radio24.it. Trovate tutti i dettagli per utilizzare naturalmente non solo il podcast di 2024, ma tutti i nostri programmi. Stiamo parlando di tablet, tablet computer, tablet PC, ci sono tanti modi, questa è una novità, il prodotto è ancora nuovo, per cui ci dobbiamo forse ancora intendere sul nome. Alcuni lo chiamano iPad, ma l'iPad è uno dei tanti prodotti, ci sono già alcuni messaggi su Android, ma cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. Gianfranco Giardina, se ti chiedessi che cos'è un tablet o una tablet, cosa risponderesti? Ma volendo essere molto semplici, quando si definisce una nuova categoria si cerca di partire dalle categorie che conosciamo meglio, quelle che esistono già oggi. Allora potremmo definire un tablet come un PC portatile senza tastiera, quindi tutto integrato nella parte del monitor, oppure venendo dagli smartphone potremmo definirlo anche come uno smartphone con un display molto più grande. Io personalmente preferisco questa seconda definizione perché in realtà anche i sistemi operativi, quindi le funzionalità che questi tablet hanno, sono molto più simili a quelli degli smartphone più evoluti, evidentemente, però chiaramente uniscono a queste funzioni, che sono già molto potenti, la comodità di un display non piccolo e quindi che possa essere usato anche in punta di dito con facilità e per vedere anche pagine web complesse. Stiamo parlando di una cosa nuova, non so se è proprio una cosa nuova nuova. La nascita di questa tecnologia potrebbe essere fatta risalire addirittura a 18 anni fa, quando nel 1993 Apple lanciò il primo palmare touchscreen. Si trattava del Message Pad, basato sulla piattaforma software Newton, la cui produzione però non durò oltre il 1998. Due anni dopo ci prova Microsoft, quando Bill Gates a Las Vegas presenta il primo tablet PC basato sul sistema operativo Windows. Negli anni successivi il concetto di tablet non riuscì però ad affermarsi, finché il 27 gennaio 2010 Steve Jobs presenta l'iPad della Apple. Naturalmente avremmo potuto fare una storia dei tablet o delle tablet molto molto lunga, alcune notizie giusto per dire che non stiamo parlando di una cosa nuovissima. Sicuramente il 27 gennaio del 2010, quando è stato presentato l'iPad, che poi uscirà sul mercato il 3 aprile dello scorso anno, quella potrebbe essere definita la rinascita del tablet. Ma che cosa diceva Steve Jobs, il numero uno della Apple, presentando questa novità a San Francisco? Se vogliamo creare una nuova categoria di prodotti, dobbiamo realizzare qualcosa che faccia molto meglio certe cose. Meglio di un computer portatile e meglio di uno smartphone. Ma quali sono queste cose? Sentiamo. Things like browsing the web, navigare in internet, doing email, scrivere email, enjoying and sharing photographs, guardare e scambiarsi fotografie, video, watching videos, guardare video, enjoying your music collection, ascoltare la propria musica, playing games, giocare, reading ebooks, o leggere gli ebook. Insomma, un sacco di cose, e Steve Jobs, abbiamo citato prima, abbiamo fatto riferimento ai netbooks, che sono la versione più piccola, leggera e più economica dei notebooks, cioè dei computer portatili tradizionali, presentando l'iPad criticava pesantemente i netbooks dicendo costano meno ma fanno male un sacco di cose, invece i tablet dovrebbero far meglio tutte le cose che abbiamo detto. Prima di sentire la voce dei nostri ascoltatori che stanno già chiamando il nostro numero verde 800 24 0024 per le vostre considerazioni ma anche per le vostre domande sui tablet, facciamo un rapido giro per centri commerciali. Abbiamo contattato alcuni punti vendita di elettronica di consumo per capire innanzitutto quali sono le novità alle quali i consumatori sono più interessati, ma anche per capire se quando si parla di tablet i consumatori sanno di che cosa stiamo parlando, conoscono questi prodotti e quanto sono interessati. Iniziamo da Pordenone. Maurizio Lazzer è direttore del punto vendita Euronics di Pordenone. Beh, in generale adesso la telefonia è ancora comunque un mercato che ha un grosso riscontro. Generalmente però ci si sofferma sui smartphone, quindi l'articolo touch. Poi si va anche sul tablet, quindi in questo momento abbiamo una notevole richiesta di tablet. Ecco, quando vi chiedono qualche cosa sui tablet, i consumatori sanno di che cosa stanno parlando o ancora ci capiscono poco? Diciamo che un 30% vengono già con le idee chiare, cioè conoscono già il prodotto, sia consultano siti eccetera, mentre gli altri bisogna valutare le proprie esigenze, quindi capire se è un cliente consumer, quindi che utilizza normalmente il prodotto per l'utilizzo a casa oppure per lavoro e quindi lo si sposta in base al tipo di utilizzo. Alcuni scelgono il tablet per sostituirlo al computer o accade poco questo? Sempre di più, nel senso che abbiamo avuto una notevole diminuzione di netbook, quindi l'apparecchio un piccolo 10 pollici, 13 pollici, che fino adesso veniva utilizzato come strumento da viaggio, quindi generalmente per la consultazione in internet. Ecco, questo riversa tutto sui tablet. Dal suo punto di vista, l'arrivo prossimo, nei prossimi mesi, di nuovi prodotti, perché oggi sostanzialmente c'è un prodotto di Apple, un prodotto di Samsung e poco altro, mi conferma. Ecco, l'arrivo, l'arrivo di altri prodotti può favorirvi? Sicuramente, perché è un mercato che sentiamo freme, quindi c'è gente che chiede, più che altro cercano di capire la compatibilità rispetto a tutto il resto del mercato, cioè inteso come mercato PC, quindi tutto il software che ci va alle spalle, quindi se è compatibile rispetto a quello che hanno già loro. Alcuni mettono a fianco i tablet e gli ebook reader, o questi sono due mercati completamente diversi? C'è ancora un po' di confusione, nel senso che una volta spiegata la differenza, molti rimangono ancora sul tablet, perché l'ebook rimane pressoché isolato come macchina. In realtà vediamo che anche l'ebook questo Natale ha fatto il suo successo, quindi c'è stato un notevole picco, un aumento delle vendite. Quello degli ebook reader e dei tablet sono due mercati che a volte appunto vengono confusi, anche di questo parleremo. Da Pordenone ci spostiamo a Roma. Claudio Pes è direttore del punto vendita Troni nel centro commerciale Euro di Roma. Se noi sappiamo che a Natale, dalle ultime statistiche, abbiamo avuto un'incidenza di richiesta altissima per quanto riguarda i tablet, quindi è un mercato in costante aumento e le previsioni del 2011 sono molto ma molto positive, quindi sicuramente i tablet si posizionano come una richiesta altissima. A prescindere da quello, diciamo che negli ultimi mesi il 3D sicuramente ha viaggiato in modo parallelo rispetto al tablet. Comunque le due cose sono tecnologicamente nuove, quindi c'è una richiesta e una curiosità abbastanza interessante. Quando parliamo di tablet, parliamo di iPad, o lei vede che c'è interesse anche sugli altri prodotti, anche se sono ancora pochi? Ma per lo più l'Apple iPad è sicuramente il prodotto più richiesto. Poi c'è il Samsung Galaxy e l'HP Slate 500 che vengono richiesti, però fatto 100 il mercato 70 di Apple iPad. Effettivamente così stanno le cose anche in un mercato più vasto, se guardiamo i dati a livello mondiale. A proposito di dati, nella seconda parte di 2024 faremo anche un breve punto della situazione, cercando di capire quanto cresce questo mercato e quanto il mercato dei netbooks, dei computer portatili, si stia spostando sui tablet. Questo è 2024, nella nuova edizione, nella nuova versione, in diretta il sabato pomeriggio tra le 15.30 e le 17. Più tardi sentiremo anche la voce dei nostri ascoltatori, risponderemo alle domande che già sono arrivate via SMS, potete scriverci via telefonino o via smartphone, naturalmente 349-238-6666, oppure preferiamo sentire la vostra voce in diretta tra poco al nostro numero verde 800-24-0024, il numero gratuito di Radio 24. C'è un'ultima possibilità, ovvero l'email 2024@radio24.it. Ci risentiamo dopo le notizie di GR24. Numbers 2024. Numbers. Nel 1990 gli utenti di internet nel mondo erano appena 3 milioni. Tre quarti di essi vivevano negli Stati Uniti, il 15% nell'Europa occidentale. Oggi, a oltre 30 anni dalla nascita del web, quanti sono i navigatori nel mondo e quali sono i paesi col maggior numero di utenti? Numbers. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024 nella nuova versione. Alcuni avranno acceso la radio in questo momento, perché normalmente 2024 siete abituati ad ascoltarla tra le 16 e le 17, invece in questa nuova versione andiamo in onda tra le 15.30 e le 17, quindi abbiamo guadagnato una mezz'ora. Siamo in diretta su Radio 24 con i nostri ascoltatori che tra poco sentiremo. Abbiamo anche lanciato una nuova rubrica che si chiama 2024 Numbers, con i numeri della tecnologia. Vi abbiamo domandato quanti sono i navigatori nel mondo e quali sono i paesi col maggior numero di utenti. Circa 2 miliardi di persone utilizzano internet nel mondo. La Cina ha da tempo superato gli Stati Uniti come numero di utenti e ne conta oggi 425 milioni. In America ci sono 240 milioni di persone che usano internet, mentre in Giappone, il terzo paese per numero di navigatori, sono quasi 100 milioni. Naturalmente questi sono numeri assoluti. Se andassimo a vedere il tasso di penetrazione della rete internet, scopriremo che gli Stati Uniti, ma qualche paese ancor più del nord Europa, è in testa alla classifica, ma questa sarebbe appunto un'altra classifica. Riprendiamo, oggi parliamo di tablet, abbiamo cercato di capire se gli utenti, chi frequenta i centri commerciali sta capendo di che cosa stiamo parlando. Allora abbiamo fatto un giro con un microfono a Roma. Tablet, sai che cosa sono? No, non lo so. Sono le tipo l'iPad, i computer. Al momento penso che non siano molto sviluppate, anche perché la carta del libro non si possa sostituire mai. La sensazione che dà la carta. Per la navigazione in internet potrebbe essere interessante. Quella sì. Sono utili per certi versi e un po' inutili per altri. Non è né un computer né un telefono, magari l'iPad, tante cose non puoi farle come fai con un computer e poi non puoi chiamare, però per certi versi è molto utile, che internet è a portata di mano. Sostituire il PC no. E poi non puoi chiamare, mi fa morire. Oggi ho ascoltato più volte questa voce mentre tagliavo tutte le voci che sono state raccolte appunto a Roma. È con noi Gianfranco Giardina, che guida il magazine digitale online dday.it ed è uno dei nostri esperti. Una cosa che vorrei dire in questa nuova versione: naturalmente non perderemo i nostri più affezionati esperti, non perderemo la loro autorevolezza, la loro chiarezza. Vi invito anche a scriverci una email oppure a chiamarci anche nei prossimi giorni per farci sapere che cosa ne pensate di questa nuova versione. Gianfranco, abbiamo detto qualche cosa sui tablet, che cosa sono. Una caratteristica che li distingue, ad esempio, dai computer portatili con i quali spesso si confrontano, è cosa? Il fatto che siano accesi praticamente sempre in background, ma di fatto che l'utente li possa accendere istantaneamente, cioè nell'istante in cui servono si schiaccia un tasto e sono già in funzione, sono già perfettamente funzionali, si può navigare in internet, controllare la mail e fare tutto quello che si vuole. Quindi questa è una differenza sostanziale col PC, che altrimenti deve essere lasciato in stand-by. E comunque un computer ha un'architettura tale per cui i consumi in stand-by non sono così bassi come quelli di un tablet, quindi la batteria si esaurisce molto più velocemente. Questa è una prima caratteristica distintiva. L'altra caratteristica distintiva è ovviamente che, non l'abbiamo detto, ma i tablet devono avere un display sensibile al tocco, un touchscreen, perché è l'unico modo di interagire, di fatto, al di là dei pochi pulsanti hardware che normalmente ci sono, è proprio quello di muovere il dito sullo schermo. In alcuni casi c'è anche uno stick che si può utilizzare come ausilio, ma direi generalmente il dito. E l'altro elemento fondamentale è la connettività. Sono apparecchi che devono essere connessi alla rete, dati a internet. Ci sono delle versioni soltanto wifi. Sappiamo qual è la situazione di wifi in Italia. Wifi pubblica in giro non è ancora diffusa, è pseudo liberalizzata, ma ancora dovremo vedere e capire in che modo. Da noi infatti hanno molta diffusione i modelli 3G, cioè quelli che hanno anche la connettività dati su rete cellulare, e il fatto che le tariffe dati su rete cellulare abbiano avuto negli ultimi periodi dei grossi riposizionamenti verso il basso di prezzo e quindi siano un po' accessibili a tutti, è una cosa che sta abilitando molti utenti, per esempio alla navigazione in mobilità. Il gestore che credo che faccia tariffe in questo momento più convenienti per iPad chiede 5 euro al mese per una navigazione praticamente illimitata, cioè con un tetto di dati che normalmente non viene mai raggiunto. Che è molto esiste, ma è talmente alto per cui il traffico che fanno questi aggeggi non è molto, molto elevato. No, non è molto elevato. Sentiamo Filippo che ci telefona da Como. Sì, buongiorno. Io avevo una domanda, nel senso che io sono un utilizzatore di un telefonino, cioè Apple. Di uno smartphone, di un iPhone, diciamo pure iPhone. Tutto. Non so se si può dire. Sì, si può dire tutto, non si preoccupi. Un Filippo. iPhone 3GS, lo uso anche nella pratica lavorativa, io sono un infermiere e lo utilizzo per fare i calcoli, i dosaggi dei medicinali, per delle tabelle. Però la mia domanda era questa: io non capisco come mai stiamo parlando adesso di tablet che praticamente fino a poco tempo fa il mondo andava verso la dimensione, quindi avere dei dispositivi super tecnologici che erano più piccolo possibile. Bravo, sì. E tu dici come mai ci hanno... Come mai adesso stiamo... Imbambito, mondo... certo. Sì, tipo Samsung, Apple, molte altre marche stanno facendo questa cosa, una gara verso il tablet migliore. Tu dici non bastava lo smartphone, tu dici io con l'iPhone faccio tutto, non basta quello. Sì, anche se ha delle diciamo degli inconvenienti, essendo piccolo comunque con lo schermo, il mio dito va a toccare 8 tasti, 8 icone. Questo però... potrebbe essere uno dei motivi per cui ci stiamo spostando verso una dimensione più alta. Rimani in linea, Filippo, faccio una battuta riprendendo un video. Se avete tempo e voglia, ricordatevi The Evolution of the Tablet. È lo spot pubblicitario un po' lungo, un filmato che è stato lanciato da Motorola online per presentare il proprio tablet nuovo, che tra l'altro appunto è stato presentato al Consumer Electronics Show. Al punto... iPad, visto che abbiamo citato il tablet della Apple, c'è una sorta di battuta che si collega con quello che diceva Filippo. It's like a giant iPhone, quindi è come fosse un grande iPhone, but it's like a giant iPhone, cioè che è questo fatto di essere come un iPhone gigante, anche forse il punto debole. Filippo, rimani con noi, adesso abbiamo la viabilità, poi sentiamo anche il parere di Gianfranco Giardima, poi gli altri ascoltatori. Vi ricordo il nostro numero verde 800 24 0024, ci risentiamo tra circa un minuto. Strade in diretta. Sulla 9 la Inate Como Chiasso, si sono formate code tra Como Nord e Chiasso in direzione della Svizzera per le operazioni doganali. Il tratto urbano della A24 rimane trafficato e ci sono rallentamenti tra Via Togliatti e il grande raccordo anulare in uscita da Roma. Trafficata anche la tangenziale di Napoli, con code in particolare in uscita fuori Grotta in direzione Pozzuoli. Infine prudenza per la nebbia sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo, la visibilità è ridotta tra Sergi e San Gabriele e Colle d'Ara. È tutto, ci risentiamo tra circa mezz'ora. 2024. Riprende 2024, il nostro numero verde, i nostri ascoltatori che ci chiamano per parlare oggi di tablet. Abbiamo sentito Filippo da Como che prego di rimanere in collegamento con noi, perché poi sentiremo anche il suo parere sentendo gli altri ascoltatori. Luca, ci spostiamo a Firenze. Buongiorno Luca, ciao. Buongiorno. Pronto? Ti ascoltiamo. Ok. Niente, io come dicevo alla redattrice, sono un iper utente di iPad, perché da quando è uscito sono del modello base, perché per comodità è tutto, ho un 16, e praticamente mi sono ritrovato a integrare il mio portatile, non a sostituirlo, però per quelle funzioni per cui il portatile diventava impossibile, tipo controllarmi la posta mentre sono in mobilità, mentre viaggio in auto. Addirittura, forse sono anche una malattia, mi controllo le ricette perché mi sono fatto uno slot sul frigorifero dove appoggiare l'iPad e controllare le cose mentre sto facendo cucina e queste cose qui. E questo forse il difetto più grosso dell'iPad, perché diventa un portatilissimo PC, e del fatto che non telefoni proprio non ti interessa questo. Assolutamente. Diciamo che non si può chiamare, come diceva prima il nostro l'altro ascoltatore, insomma la persona che abbiamo sentito, non ti interessa. Questo è per quell'uso ho il telefono. Certo, certo. Che possa essere altre cose, ma infatti anche non vedo in grande, cioè così proprio una grande evoluzione la necessità della telecamerina nell'iPad come parla nella seconda generazione, perché secondo me è anche un problema di funzione. Portarmi un telefono di 25 centimetri per 15 all'orecchio è un po' complicato, certo, lavorare in Bluetooth è ancora più complicato perché le coperture poi vanno e vengono. È una funzione diversa. E tu sei tu dici io sono soddisfatto e mi piace, insomma, mi piace come idea. Grazie Luca. Che mestiere fai, scusa? Che mestiere fai? Allora, io mi occupo di logistica e mi occupo di gestionale, sono project manager per alcune aziende. Ti serve anche per lavoro? L'uno e l'altro. L'uno e l'altro. Bene, grazie Luca, buon ascolto, buon viaggio, buon weekend. Gianfranco Giardina. Allora, magari qualche riflessione sulla prima telefonata, quella riguardo al fatto che i tablet non servirebbero perché tanto gli smartphone fanno già tutto. Lo dicevamo all'inizio, praticamente questi tablet in questo momento, quelli che interpretano meglio questo concetto, sono effettivamente degli smartphone con un display più grande, di fatto, come funzioni. Però è proprio il display più grande che li qualifica. Ci sono alcune cose, parlavamo prima di ebook, per esempio leggere un libro, piuttosto che navigare un sito internet, che fatti possono essere anche fatti su un telefonino, ma ovviamente si possono fare per brevissimo tempo, per testi molto corti e per una lettura che comunque diventa molto faticosa, bisogna continuamente ingrandire i testi e spostarsi qua e là per avere una leggibilità decorosa. Il fatto di avere un display più grande abilita a queste funzioni in maniera, direi, sostitutiva del computer, cioè si può navigare in internet su un tablet precisamente come lo si fa sul PC, con la stessa qualità e anzi direi con una portabilità migliore. Faccio un esempio: quando si è in treno, in metropolitana, per tutti i pendolari, quelli che fanno commuting, che si spostano, pensate a cosa vuol dire leggere un quotidiano o un sito internet con un tablet in mano, oppure farlo con un PC, anche con un netbook. Il fatto che ci sia la tastiera che vada appoggiato sulle gambe comunque rende in ogni caso la situazione scomoda, mentre il tablet è decisamente più comodo. Quindi credo di poter dire che il successo dei tablet nasca proprio da questo aspetto. Quindi i vantaggi ci sono. Per la evidenti categoria professionale, l'infermiere, voglio aggiungere un'altra adesso cosa. Sentiamo poi Filippo. È molto vero che per esempio gli infermieri devono fare i dosaggi dei farmaci, gli smartphone hanno sostituito la calcolatrice che stava in tasca a tutti gli infermieri, inevitabilmente. Quindi è anche una dimensione, un telefonino è anche una dimensione da calcolatrice di fatto, e un iPad sarebbe molto più scomodo. Però per esempio sono al corrente di progetti nella sanità pubblica che prevedono l'utilizzo di tablet per comunicare, quindi per comunicare con i parenti degli ammalati o gli ammalati, nel caso sono bambini, quindi con i genitori, per comunicare tutti i dati sanitari salienti che provengono da una cartella elettronica, cartella sanitaria elettronica, comunicarli tramite un tablet. Quindi di fatto questo tablet permette ai genitori di vedere questi dati in maniera facile, navigarli in maniera facile, anche senza avere nessuna conoscenza di PC. Quindi anche gli iPad vengono usati in sanità, per esempio. Filippo, no, noi non dobbiamo convincere nessuno. No, assolutamente. Io sono convinto che, a parte che un ebook io sinceramente non lo leggerò mai, nel senso che anche se vado in metropolitana mi porto il mio sano e bellissimo e vecchio libro. Va bene, cioè ormai ci stiamo avvicinando a questa ipertecnologia di avere tutto in un'unica soluzione, quindi anche il fatto dell'iPad, che si può tranquillamente visionare siti web, scrivere mail, però tu dici non c'è così tanta necessità. No, questa funzionalità non fare il telefono, cioè io sinceramente andare a spendere tot euro 500, 600 euro, chiarissimo, chiarissimo. Bene, Filippo, io ti ringrazio, mi raccomando. Posso aggiungere una cosa? Sì, certo. Nel senso che dei miei colleghi nell'Italia, sempre come infermieri, stanno già utilizzando gli iPad come quando si va a fare le visite, cioè il giro visita, diciamo. Quindi tutto quello, anche radiografie, nuovi farmaci per la terapia, così vengono già tutti inseriti dentro questo iPad. Però cioè, l'unica cosa, l'unico scomodità, diciamo, è che oltre a quello, cioè se ci sono degli errori, non posso si dire, fa fatica ad accorgersene, insomma. Poi magari un giorno. Certo, certo. Filippo, grazie e buon weekend. Passerei a Paolo da Roma, poi abbiamo anche altri ospiti che vorremmo sentire. Paolo, buongiorno, benvenuto. Sì, buonasera. Ti ascoltiamo. Allora, prima di tutto volevo dire a Filippo che esiste un'applicazione, non so se l'ha vista, presentata al CES, dove l'iPhone diventa anche monitor per l'elettrocardiogramma. Ah, quindi... fantastico. Sì, sì, sì, abbiamo visto. Sì, diciamo, la mia domanda era, come dire, io sono orientato sulla parte consumer, quindi non faccio un utilizzo business, insomma, del, cioè, professionale, non ho target, sì. Per cui io, esatto, professionale. Io in questo momento sto cercando di prendere informazioni, però la cosa che mi fa arrabbiare è che io, da utente finale, cerco di trovare il modo per avere tutto in maniera convergente. Quindi in questo momento mi trovo solo ad avere l'esempio del Galaxy Tab, che è un tablet che ha anche la parte fonia, mentre la cosa mi fa arrabbiare è che l'iPad, molto affascinante, molto bello il mondo Apple, però mi costringerebbe ad avere anche un telefono. Quindi invece di avere una, come dire, una soluzione in più, mi darebbe una complicazione, perché non va a sostituire tutto il mio mondo, se non per la parte PC, diciamo, con i limiti, volendo, di un tablet. Però avrei comunque il problema di avere il telefono. Certo. Allora, la domanda è se questa convergenza, capisco per motivi di marketing le case, se lo faranno probabilmente gradualmente, però se questa convergenza un giorno ci sarà. Beh, caro Paolo, io potrei dire, intanto ti ringrazio di averci chiamato, di essere uno degli ascoltatori di 2024, direi che quello della convergenza, io ogni tanto faccio questa domanda ai nostri ospiti, ai nostri esperti, è purtroppo un mito che si è realizzato metà, perché effettivamente le aziende cercano di frammentare il mercato e dacci, l'altro giorno scherzando con un americano che aveva un bellissimo smartphone, dicevamo tu dovresti avere il telefonino classico per alcuni momenti, lo smartphone per altri momenti, il tablet per altri, il portatile perché comunque è una tastiera, e però quando sei a casa magari il computer vero e proprio con un grande schermo. Gianfranco Giardina. Sì, assolutamente, adesso arriviamo a avere il tablet da sera e il tablet da giorno, no, non è questa la situazione. Io non credo che in questo momento il fatto della fonia sia rilevante, ma è la mia opinione ovviamente, il fatto dell'assenza della possibilità di chiamare, perché sarebbero in pochi ad affidare la propria SIM, quindi il proprio numero di telefono principale, a un tablet che poi non viene portato con sé costantemente. Quindi poi alla fine si dovrebbero avere normalmente due numeri di telefono. È difficile in questo momento fare una dual SIM, quindi avere di fatto due SIM sullo stesso numero, però una deve essere micro SIM, perché questi tablet spesso hanno delle SIM di dimensioni ridotte, e quindi non è così semplice neanche fare un contratto di questo tipo e quindi avere il proprio numero di telefono che squilla sia sul cellulare che sul tablet. Quindi e poi il tablet comunque non va portato all'orecchio, si parla al telefono con i tablet abilitati a farlo, iPad no, ma per esempio il Galaxy Tab citato, con un auricolare Bluetooth, sì. Che anche questo potrebbe non essere comodissimo. La storia degli ultimi 20 anni, ecco, diciamo così, ci insegna che non sempre le funzioni riaggregate dentro un solo prodotto, quindi la convergenza intesa come tutte le funzioni in un prodotto solo, è un modello vincente, perché il prodotto diventa comunque più complicato da usare, più complesso, più funzioni aggiungiamo, e poi ricordiamo anche che la vulnerabilità ai guasti diventa molto più importante, cioè se si rompe l'apparecchio unico, quello che integra tutte le funzioni, si rompe tutto. Questo che accadeva per esempio che aveva il VHS integrato nel TV, ecco, magari si trovava a buttare via tutto l'apparecchio perché guastava la meccanica semplicemente del videoregistratore. Chiaro, se avesse avuto gli apparecchi separati avrebbe avuto molta più semplicità. Infatti i lettori di file MP3 hanno avuto e continuano ad avere un grandissimo successo, anche se i telefonini potrebbero leggere gli MP3. No, leggono tutti. Li leggo, certo. Navigatori GPS continuano ad essere venduti, anche se oramai la gran parte degli smartphone fanno anche da navigatore. Vi annuncio che la prossima settimana parleremo proprio di questo, navigatori GPS. Chiudiamo questa breve pappa, tra poco sentiremo altri ascoltatori, però volevo dare la parola a Carolina Milanesi, che è un analista di Gartner che gli ascoltatori di 2024 conoscono, ed è responsabile mondiale delle ricerche sui terminali mobili, quelli che in gergo si chiamano mobile devices. Quanto è grande questo mercato? Carolina Milanesi. Ma a livello di numeri un'importanza interessante, le nostre aspettative per il mercato sono intorno ai 65 milioni di unità per il 2011 e se a livello mondiale, se vediamo come queste unità vengono divise, l'Europa ha intorno ai 22 milioni e il Nord America intorno ai 34 milioni, quindi un 32% del mercato sarà europeo, un 52% del mercato Nord America e il resto diviso per le varie regioni. Però dal punto di vista del consumatore c'è un interesse incredibile al momento. Sì, infatti tutti gli operatori del mercato ci dicono che i consumatori sono interessati. Finora, anche in base ai dati o comunque alle ricerche che voi avete realizzato, c'è un interesse diciamo solo legato alla curiosità, quindi consumatori che vanno, guardano, si informano, o effettivamente questo è già un mercato e si sono venduti milioni di pezzi già negli ultimi mesi, magari anche con l'aiuto del Natale? Ma ci sono senz'altro dei numeri interessanti. Il Natale per alcuni è stato un pochino meno fruttuoso di quello che pensavano, e secondo me perché tanti consumatori stanno aspettando la seconda generazione dell'iPad e di vedere che quello che succede su Android. Le nostre aspettative che finiremo e finalizzeremo tra un paio di settimane per il 2010 sono intorno ai 20 milioni, quindi un buon numero, tenendo conto però che la grande maggioranza di questi sono iPad, non c'è effettivamente ancora nel mercato un vero concorrente per questo prodotto. E i primi li abbiamo visti a CES. Appunto, questi prodotti, indicativamente compreso il nuovo iPad, quando usciranno, quando saranno sul mercato? Parliamo di aprile più o meno, anche i venditori stessi non hanno ancora dato delle date molto precise, ma a marzo-aprile dovrebbe arrivare senz'altro la seconda generazione di iPad e poi questi nuovi concorrenti. A proposito di concorrenti basati prevalentemente, anche se non tutti, su Android, cioè il sistema operativo promosso da Google, a vostro parere si tratta di concorrenti seri o manca ancora quello che alcuni negli Stati Uniti chiamano l'iPad killer? No, sono per quello che abbiamo visto da quello che hanno fatto con il nuovo sistema operativo che si chiama Honeycomb, sono dei concorrenti seri. La cosa secondo me interessante è vedere quanto, diciamo, il lavoro di creare le fondamenta per un'offerta interessante che ha anche un ecosistema di servizi e di applicazioni offerto, non soltanto di hardware, è stato già fatto per gli smartphone, quindi questa è un'evoluzione, se vuoi, di tutto il lavoro che è stato fatto in precedenza. Quindi come piattaforma Android ha impiegato più tempo a trovare l'iPhone killer che non l'iPad killer. Sono le 16.30, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci, stiamo parlando di tablets, gli iPad e tutti gli altri concorrenti come il Galaxy Tablet di Samsung, come gli altri che stanno uscendo, avete sentito, arriveranno in primavera tra aprile e probabilmente giugno. Dicevo, il nostro numero verde 824 0024, tra poco sentiremo altri ascoltatori. 2024. Fino alle 17 assieme a 2024 stiamo parlando di tablet, la prossima settimana ci occuperemo di GPS. Vi invito a scriverci una email durante la settimana con tranquillità per suggerire i temi delle prossime puntate, cercheremo di seguire anche le vostre indicazioni. Vi ricordo che anche questa puntata di 2024 sarà disponibile attraverso il sistema podcast di Radio 24, tutte le informazioni sono online www.radio24.it, entrate naturalmente nella sezione podcast. Se non vi riuscite ad orientare, beh, inviateci un'email e vi spiegheremo con maggiore dettaglio. Il podcast è fantastico, quando uno si abitua poi adora questo nuovo sistema per ascoltare la radio. Abbiamo detto che ci siamo divertiti a fare una passeggiata all'interno dei centri commerciali per sentire il parere delle persone. 30 secondi e altre voci da Roma. Sono un po' troppo avanti rispetto alla tecnologia, che è bassa in Italia, cioè nel senso che ci sono molti tablet che, come li chiama giustamente lei, che vanno col wifi e l'Italia non è predisposta al wifi. Secondo lei possono sostituire PC? Secondo me sì. Per la lettura? Preferisco il metodo tradizionale, il libro è sempre più bello piuttosto che leggere dei libri virtuali. Sui tablet, se li conosci, no. Tipo gli iPad? Inutili, tecnologia per ora avanzatissima che secondo me non servirà a niente per ora. Comunque non ho la disponibilità economica per comprarne uno, quindi sono inutili per me. La tecnologia è un po' come la politica, c'è chi adora una cosa che ormai non ne farebbe più a meno, altri che dicono, appunto, come diceva poco fa questo ragazzo, sono inutili. Sentiamo Michele che chiama dalla provincia di Firenze. Buongiorno Michele, ciao. Sì, ciao, buongiorno a te. Senti, io mi sono messo in coda poc'anzi con una domanda che non è più attuale perché sono state date delle risposte in trasmissione circa l'integrazione di questi vari oggetti e circa la inevitabile complicatezza e criticità anche in termini di possibili Allora passi, ti chiedo insomma. Se sei soddisfatto delle risposte. Sì, però nel frattempo me ne è venuta un'altra, perché ho detto vabbè, non posso perdere l'occasione certo. di entrare. E cioè, prendendo spunto dal fatto che gli smartphone stanno incorporando la funzionalità GPS dei navigatori, mi viene in mente che possa esserci alle viste un possibile strike back, un colpo di ritorno da parte di Microsoft e similari nell'inglobare negli Windows-like le funzionalità che oggi sono dell'iPad o addirittura dello smartphone. Questo nel segno di una dialettica che appunto già ha fatto segnare diversi esempi in passato. Chiarissimo. Cosa ne pensano gli esperti in questo senso? Michele, se sei d'accordo, io mi segno questa domanda, visto che la prossima settimana parliamo di GPS di smartphone, magari la riproponiamo la prossima settimana, sei d'accordo? Senz'altro, ti ringrazio. Anzi, grazie molto per ascoltare Radio 24, in particolar modo 2024. Tullio da Roma, buongiorno. Buongiorno, io sono consulente informatico. Conosco i tablet da tanto tempo, soltanto sì. Sono sempre stati oggetti di culto con un costo triplo rispetto a un personal computer, a un portatile. Quindi è vero che l'iPad ha fatto rivoluzione in questo senso, nel senso che oggi tutti sentono parlare dei tablet, però secondo me la differenza sostanziale dei tablet è che prima venivano usati solo col pennino, perché c'era il riconoscimento della scrittura. Oggi invece le dita, giustamente, sostituiscono il pennino degnamente fino a quando però uno non decide di scrivere con la propria calligrafia e farsi riconoscere la scrittura al computer. Certo, sicuramente comunque la rivoluzione del touch è stata una rivoluzione determinante. Io passerei a Bergamo, dove c'è Giorgio. Ringrazio Tullio che ci ha chiamato da Roma. Buongiorno Giorgio. Ciao, sono Giorgio, sono uno studente di 14 anni. Adesso sono in terza media. Però io uso tuttora adesso l'iPad per studiare e trovo che sia una cosa bellissima, perché ovunque ti trovi lo hai portato di mano e puoi trovare di tutto. E per l'anno prossimo mi sono iscritto ad una scuola dove usi principalmente l'iPad proprio in classe per studiare. Trovi che i professori sappiano usarli questi aggeggi? Beh, dipende dalla generazione. O sei più bravo tu dei professori? Certamente, poi le cose della Apple, quando le usi, cioè devi usarle per un po' di volte, poi capisci che subito come usarle, cioè non c'è bisogno di leggere le istruzioni, vai a caso e cerchi come usarle, le capisci. Quindi anche mio padre, che ha 63 anni, adesso gli ho messo in mano l'iPad e lo usa benissimo. Quindi sei stato tu che hai insegnato al papà? Sì. Senti, tu l'iPad lo hai voluto o qualcuno te l'ha regalato? No, l'ho proprio voluto io perché sono un fan della Apple, uso tutto, anche computer. Sì. Ma quando è arrivato l'iPad, proprio il computer l'ho messo da parte, anche se molti dicono che non serve, ma se sai trovare anche le applicazioni giuste lo puoi usare per tutto. Tu sei un ascoltatore nostro di 2024, della radio in generale? Della radio in generale, poi ascolto tutto. Anche 2024 soprattutto, perché mi piace la tecnologia e tutto. Giorgio, ti ringrazio. Se tu mi mandi un'email, magari ci teniamo in contatto. Va bene, anche su Facebook? Sì, certamente. Va bene. Mi puoi trovare su Facebook, mio nome e mio cognome, Enrico Pagliarini. Ok. Poi magari apriremo anche una pagina di 2024 proprio solo per il programma. Giorgio, grazie. Grazie, però mi raccomando, i compiti vanno fatti anche con l'iPad. Certo, certo. Arrivederci, grazie. Grazie Giorgio. Ciao. Gianfranco, vuoi sentire altri ascoltatori? Ma qualche mini riflessione su quello che abbiamo sentito sull'iTouch. Va detto che è vero che i tablet esistevano già da tanto tempo, comunque apparecchi molto simili, però gli schermi touch capacitivi sono arrivati non da tantissimo, sono quelli che offrono un'esperienza veramente perfetta anche di navigazione col dito, e quindi si riescono a usare molto, molto meglio. Ci sono sia sugli smartphone che sui tablet. Riguardo al prezzo, è qualcosa che diceva qualche voce catturata per strada, sì, non costano poco questi tablet, però io farei un parallelo verso i loro fratelli minori o i cugini minori. Ecco, un iPad costa tanto quanto un iPhone. Ci balleranno 40-50 euro al massimo a seconda dei modelli, ma comunque questo è l'ordine di grandezza. Però offrono una batteria molto più grande, una durata molto più lunga, un display molto più ampio, insomma, forse ci sono alcuni smartphone che costano troppo e non i tablet che costano troppo. Questa è la riflessione. Per quanto riguarda invece lo studente, la lettura e la scuola, se ne è parlato molto, perché si vorrebbe andare verso una dematerializzazione dei libri, evitare che questi ragazzi vadano a scuola con gli zaini che pesano 20 kg, però chiaramente c'è ancora una barriera di ordine di prezzo. Non si può imporre a tutti gli studenti di avere un iPad, perché non tutti ovviamente possono permettersi, o nelle loro priorità c'è l'acquisto di un oggetto tecnologico che comunque costa intorno ai 500 euro, qualcosa in più. Sì, visto quindi... che hai citato la lettura su uno strumento di questo tipo, ci sono alcuni ascoltatori, ma l'abbiamo sentito anche poi nelle voci raccolte ai centri commerciali, che paragonano o danno per scontato che il tablet computer sia un ebook reader. Allora, in realtà l'ebook reader è un prodotto diverso che serve per leggere i libri solo. Sì, è un prodotto diverso. È una tecnologia diversa. Anche se si può presentare in maniera simile ai tablet, forse dimensioni un pochino più piccole, ma comunque in maniera simile, la grande differenza, quello che ne fa proprio l'unicità, è il fatto di usare un display non luminescente. Cioè gli ebook reader hanno un display che si presenta in tutto e per tutto come un foglio di carta. Cioè al buio non si vede, tanto per intenderci, ci vuole la luce. Questo è un vantaggio perché non affatica affatto la vista, cosa che invece a lungo andare può fare un display retroilluminato come un display LCD tipico di tutti i tablet. Per questo motivo gli ebook sono macchine più dedicate, anzi direi quasi esclusivamente dedicate alla lettura di testi, di libri. Lo si fa praticamente come se fosse un libro, con l'unica differenza che dentro ci stanno migliaia di libri, e questo non leva che uno possa leggere porzione di un libro, dei testi tranquillamente su un tablet, a patto di non farlo per ore, ecco, cosa che invece si fa con un libro carta o con un ebook. Affatica di più la vista. Infatti dicono che gli ebook reader sostituiscono non un altro strumento, ma il libro vero e proprio. Ancora qualche ascoltatore, non so quanto tempo, so quanto tempo abbiamo, non so se riusciamo a ascoltarli tutti. Fabio da Milano, ciao Fabio, buongiorno. Ciao a tutti, grazie per la trasmissione, è sempre molto interessante. Giusto per farvi un esempio, io in questo momento ho accompagnato mio figlio a uno skatepark e vi sto ascoltando con l'iPad. Diciamo che le capacità di questi strumenti, secondo me, al di là del fatto che si possono utilizzare come telefonini o meno, lascia il tempo che trova questa osservazione, seppur corretta, bisogna saper scegliere, bisogna saper decidere un po' quello che uno vuole fare, che uso vuole fare di questo strumento. Dal mio punto di vista, io faccio il lavoro di consulente informatico, lavoro per una società di advisory, sono tra virgolette collega di questa società della Carolina Milanese. Quello che stavo osservando sul mercato, per il tipo di lavoro che faccio io, è il forte interesse che molte aziende, soprattutto a livello di marketing, stanno facendo degli sforzi molto grossi per concentrarsi sull'utilizzo di questi strumenti. Vuoi per le sfilate di moda, vuoi per l'utilizzo delle funzioni commerciali, vuoi per le vendite, vuoi per le cartelle cliniche, come diceva prima Giardina. Cioè sono innumerevoli le possibilità che, secondo il mio punto di vista e quello che sento dire anche dai miei clienti, questi strumenti possono dare come beneficio, al di là del fatto che se poi insomma uno utilizza normalmente il PC, io ho finito di utilizzarlo quando ho acquistato questo strumento, perché posso fare presentazioni, lo posso utilizzare per scrivere mail, per scrivere appunti e quant'altro. Quindi ritengo tutto sommato che al di là del costo, che insomma... Che speriamo sia bassi, sì. Speriamo sia bassi, sì. Può essere via col mercato, le funzionalità, l'utilizzo che offre sono veramente molto interessanti, soprattutto i benefici. Fabio, io ti ringrazio, scrivimi così magari ci teniamo in contatto. Vorrei passare a Salerno, brevissimo, Giuseppe, prima della viabilità. Pronto? Giuseppe, ti ascoltiamo. Ciao, sono Giuseppe di iPadItalia.com, Giuseppe Migliorino. Volevo semplicemente intervenire per dire che in generale si sbaglia un po' ad equiparare l'iPad ai computer, ecco. Penso proprio sia proprio un errore di visione, sono due cose completamente diverse, un po' come voler paragonare una macchina a un motorino, per fare un esempio. Quindi il tablet, l'iPad, che ormai viene considerato da il tablet in generale, è uno strumento che può servire a tantissime cose, ma la vera forza dell'iPad sta proprio nelle applicazioni, sì. Che è una cosa che non è stato ancora detto. Certo, ma... Cioè le migliaia di applicazioni. Chiarissimo. No, dicevo, chiarissimo, hai fatto bene a sottolineare questa cosa che avremmo detto, diciamo che è nella lista delle cose da dire, però il tempo forse ci mancherà, sono le 16:45, c'è la viabilità, tra un minuto riprendiamo. 2024. Riprendiamo, questa è l'ultima parte di 2024, abbiamo le nostre ultime rubriche, volevo salutare i nostri ascoltatori che ci hanno chiamato, alcuni non hanno fatto in tempo ad andare in onda, saluto e ringrazio anche Gianfranco Giardina. Gianfranco, abbiamo 30 secondi per dire un'ultima cosa, ma questo è un tema su cui torneremo molto presto, direi. Ma allora, al primo test di iPad l'aprile scorso noi su D-Day avevamo scritto che era bello senza anima, cioè un bellissimo prodotto, ma l'anima di una nuova categoria andava inventato tramite le applicazioni. Già in pochi mesi sono uscite tantissime applicazioni che permettono un utilizzo sempre più variato, alcune non le abbiamo ancora viste, cioè sono nella testa e nella fantasia degli sviluppatori. Negli Stati Uniti adesso ho visto iPad usati come cartellino prezzo, cioè nei negozi di fianco ai prodotti, i migliori prodotti, degli iPad montati con delle applicazioni che di fatto facevano vedere tutte le caratteristiche. Incredibile. Cioè, quindi chissà gli usi dei tablet per il futuro, sono ancora nella testa degli sviluppatori. A questo punto il fatto di avere delle applicazioni, dei programmi, in questo caso mi si permette di dire proprio come sui PC, è la funzione maggiormente abilitante di questi attrezzi che tecnologicamente sono fantastici e gli utilizzi li abbiamo visti soltanto la punta dell'iceberg per il momento. Grazie a Gianfranco Giardina che cura il magazine digitale dday.it. Adesso alcune notizie della settimana, poi la nostra nuova rubrica in collaborazione con National Geographic. Digital News. Slitta di alcune settimane il lancio di The Daily, il nuovo quotidiano digitale di Rupert Murdoch progettato per l'iPad e per il mercato americano. L'esordio era stato annunciato per il 19 gennaio al Museo d'Arte Moderna di San Francisco e ci sarebbe dovuto essere sia Murdoch che Steve Jobs. Al momento non si sa quali siano i motivi del ritardo. Inizia a Milano e durerà 6 mesi la sperimentazione di una rete Wi-Fi accessibile al pubblico che dovrebbe collegare tutte le reti già oggi attive nella zona centrale della città. L'obiettivo è collegare entro l'autunno 220 edifici comunali e 480 scuole. Il primo hotspot attivo da giovedì è quello dell'anagrafe. In attesa del proprio turno si potrà navigare gratis per un'ora. Più avanzata e diffusa la rete della provincia di Roma, che oggi conta già 498 hotspot Wi-Fi, 347 sono a Roma, 151 in provincia. Ma grazie ad un accordo con la Confederazione Nazionale Artigiani, la rete potrà ampliarsi agli associati di CNA Roma, che oggi sono 4.200. Digital News. È stata prorogata di oltre un mese fino al 28 febbraio la possibilità di navigare gratis sui treni Freccia Rossa. Da dicembre, lo ricordiamo, i 60 treni ad alta velocità sono dotati di antenne Wi-Fi che creano all'interno di ogni carrozza un hotspot. Sul treno c'è anche una ripetizione del segnale UMTS che quindi migliora la ricezione del segnale a bordo. A questo punto, chi vuole connettersi ad internet sul treno col proprio computer, con un tablet o con uno smartphone, può scegliere tra il Wi-Fi gratuito o la normale connessione 3G o UMTS. Aumenta il numero di italiani che navigano in rete, anche se il nostro paese rimane al 20° posto in Europa per penetrazione di internet tra la popolazione. Gli ultimi dati sull'uso del web sono stati pubblicati questa settimana da AudiWeb. Enrico Gasperini è il presidente. Ci sono quasi 25 milioni di navigatori mensili, e sono il 45% della popolazione dai 2 anni in su. Sono ben 12,6 milioni di utenti attivi in un giorno medio, in un qualsiasi giorno del mese, e il dato più significativo è che questo costituisce un incremento dell'11,5% circa su base annua, quindi quest'anno tutti questi dati sono aumentati di oltre il 10%. Stiamo parlando di una popolazione internet giovane oppure no? La popolazione internet italiana è caratterizzata dal fatto che sulle fasce sotto i 50 anni abbiamo delle medie che sono paragonabili a quelle internazionali. Il gap digitale italiano si ha soprattutto per gli over 50, che sono poco collegati, e quindi il gap culturale digitale si ha soprattutto nella popolazione più anziana. Sono ottimista sulla possibilità che un grosso cambiamento possa avvenire grazie alla grande diffusione della mobilità, del mobile, del cellulare in Italia, di utilizzo degli smartphone e quindi cellulari di nuova generazione per collegarsi alla rete. Magari anche dei tablet. E dei tablet, questo potrebbe consentire a quella parte di popolazione che ancora poco riesce a usare il PC a diventare internauti. Il Maglev è un veicolo a propulsione magnetica sospeso sopra la rotaia o guidovie. Può raggiungere velocità di oltre 500 km orari, restando sempre a una certa distanza dalla guidovia. Ed è un treno senza macchinista. Secondo alcuni esperti, le prossime generazioni andranno alla stazione del Maglev anziché all'aeroporto. Se questi esperti hanno ragione, si tratta di un mezzo di trasporto unico nel suo genere. Consente di effettuare spostamenti extraurbani a velocità superiori a quelle di una vettura di Formula 1. Il Maglev combina la velocità di un aereo e la comodità di un treno, offrendo ai passeggeri un facile accesso in stazioni situate al centro della città. Esistono 2 tracciati sperimentali del treno a lievitazione magnetica, chiamato anche Maglev. Uno è in Germania, realizzato dalla compagnia tedesca Transrapid, e un'altra linea di test si trova in Giappone. La prima linea commerciale è stata invece costruita a Shanghai nel 2002, sempre dai tedeschi della Transrapid, e collega la città con l'aeroporto. Un'altra linea commerciale è attiva in Giappone dal 2005. Questo treno si distingue dalle altre forme di trasporto di massa grazie al sistema di levitazione magnetica. Si tratta di un approccio radicale alla locomozione. Il treno è sospeso sopra una rotaia. La guidovia e il veicolo lavorano sinergicamente per creare e controllare la levitazione e la propulsione magnetica. Le due parti non sono compatibili con nessun altro sistema di trasporto. Il sistema di levitazione magnetica consente di sospendere in aria, al di sopra della rotaia, un veicolo dal peso totale di 70 tonnellate e spingerlo in avanti a velocità di oltre 400 km orari e tenendolo sempre a 10 mm dalla guidovia. Il vantaggio del Maglev è la capacità di trasportare passeggeri e merci in modo efficiente e senza l'uso di pistoni, turbine o altre parti mobili. E soprattutto non dipende dal petrolio come gli aerei o i treni convenzionali. Il mondo è pronto a fare un passo in avanti e adottare i treni a levitazione magnetica? Secondo gli esperti di trasporti, è il momento di investire nel futuro di questa nuova tecnologia di locomozione. Anche in Italia esiste un progetto per realizzare un treno a lievitazione magnetica. Ci lavorano da parecchi anni i ricercatori dell'Università dell'Aquila, coordinati dal professor Giovanni Lanzara, che insegna alla Facoltà di Ingegneria. La differenza fondamentale è che noi abbiamo un sistema che ha una resistenza all'avanzamento nullo, che è una delle cause principali dell'energia necessaria per i mezzi di trasporto. Mentre gli altri sistemi, sia quello tedesco che quello giapponese, hanno resistenza al moto di gran lunga superiore a quelle della ruota. Terza questione, che vale soprattutto per il sistema tedesco, è che la distanza operativa fra il veicolo e la via, nel caso tedesco si tratta di pochi millimetri e quindi con difficoltà enormi di gestione dal punto di vista strutturale, dal punto di vista anche dell'esercizio, eccetera, anche con limitazione di velocità, mentre noi operiamo con distanze nell'ordine di circa 5 centimetri e quindi questo consente di raggiungere velocità, diciamo, altissime anche se si operasse in sistemi intubati senza la presenza dell'aria. Si può anche pensare di andare ai 1.500-2.000 km l'ora. Si conclude qui 2024, questa è la prima puntata della nuova versione del nostro programma. Naturalmente, come si dice in gergo, visto che siamo tra l'altro alla radio, faremo nelle prossime settimane un po' di fine tuning, anche grazie ai vostri suggerimenti. Scriveteci una email al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile entro questa sera attraverso il sistema podcast di Radio 24, quindi avrete la possibilità di scaricare il file MP3 della nostra trasmissione. Alcuni ringraziamenti in regia. Oggi pomeriggio Valeria Bernardi e per tutti i montaggi della trasmissione Paolo Corleone. Ringrazio anche per l'assistenza Viola Bottoni e ringrazio come sempre i nostri ascoltatori. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15:30, questo è il nostro nuovo orario, e le 17:00. Un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 2024. 2024. 31 seconds in.